Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Dai che si riparte, caro Oscar! Eccoci qua, buon inizio di settimana a tutti. Questo 7 di marzo, lunedì... Santi? Santi, tutti. Del giorno sono svolto perpetuo e felicita, due martiri con l'imperatore Stimolo Severo, che però sono le patrone delle madri e delle donne che sono in gravidanza, perché furono messe al martirio malgrado questo, e furono messe al martirio con i loro liberti, con i loro servitori. Erano tutti una comunità cristiana Cartagine, e quindi sì, celebriamo anche loro, e cioè Saturo, Saturnino, Revocato e Secondino, quindi sono nomi particolari. Ma oggi è un profluvio di nomi particolari, perché oggi è Sant'Etereo, San Capitone, San Capitone, Efrem, Eubulio, Gaudioso, Elpidio, Agadodoro, Basilio, qui sì, ce n'è per tutti i gusti. Un paio li hai inventati tu, un paio li hai aggiunti tu. No. Sì. Giuro di no, e oggi è soprattutto il compleanno. Un Efrem io l'ho conosciuto. Ecco, un Efrem l'ho conosciuto anch'io, a dire la verità. E ho conosciuto un Gaudioso. Di Etereo nessuno, ma molti Etereo, lo sono, sì, a dire la verità. Sì. Oggi è il compleanno del 1933, questo giorno nasceva il Monopoli. Il Monopoli, c'è ancora, come no? Non è che c'è, no? Sono i campionati mondiali, ma sai che un italiano ha vinto i campionati mondiali di Monopoli? Un italiano, a Macao li hanno fatti quest'anno. Era Adinolfi. No, non è Adinolfi. Adinolfi gioca solo se ci sono soldi veri. E poi Adinolfi, lascialo stare, che si candida con il popolo della famiglia PDF. Così ha detto, così ogni volta che ricevete un PDF ve lo ricordate. Eh beh, questa è una bella trovata, però, dal punto di vista della comunicazione, una bella trovata. È solo l'ultimo dei candidati a Roma, L'ultimo dei candidati. Ma l'ultimo in termini temporali? No, sì, l'ultimo in termini temporali. Perché ce ne saranno tantissimi altri. Intanto è candidato oggi con la C maiuscola Giachetti, perché per il centro-sinistra ha vinto lui le primarie a Roma, nettamente, tra l'altro. Sì, nettamente. Sì, nettissimamente rispetto a Morassut, non c'è alcun dubbio, quindi diciamo chi aveva candidato Morassut in maniera antiranziana è rimasto un po' scornato, però utilizza la bassissima partecipazione per dire però la bassissima. E la risposta è ma erano i vostri amici ladri. PD bella rietta dentro però, la volta scorsa erano i vostri amici ladri, mamma mia. Comunque Giachetti vince le primarie a Roma, la Valente batte Bassolino, quindi tutta questa polemica torna Bassolino, si è sgonfiata come un soufflé, come un babà nato storto, evidentemente, nato storto, perché sì, è vero. Bassolino ha perso. Devo dire, questa forse è la notizia più rilevante dell'ondata di primaria di ieri, no? Dal punto di vista nazionale, per così dire, perché io tutto sommato, sia pur non in queste proporzioni, Giachetti vittorioso me lo aspettavo. Sì. Quello che era aperto era il risultato napoletano. Infatti, lì al contrario, no? Siccome c'è stata una buona partecipazione rispetto all'ultima volta, dice: ah, allora i cammelli organizzati. Ma vabbè, non è che magari Bassolino dice: ma io mi candido lo stesso. E questo è il dubbio che è rimasto da alcuni. Perché potrebbe dire: vabbè, ho perso le primarie, mi candido. Quindi subito ieri sera dicevano: adesso la cosa divertente sarà vedere se lui accetta l'esito. Secondo me, però, lui lo accetta. Posso sbagliare. Comunque, è un bel quadro. Tra l'altro, a proposito di candidati, noi avremo alle 8:40, minuto più, minuto meno, Virginia Raggi, ospite, è la candidata del Movimento 5 Stelle a Roma. E quindi le vuoi sentire a proposito di candidati due cose? Sì, no, sentiamole perché vale la pena. Berlusconi che dice: il mio candidato è Bertolaso, e per dirlo usa questa immagine forte. Quando Guido ed io andiamo all'Aquila, se veniamo portati in giro come la Madonna. Verremo portati in giro come la Madonna e il Bambin Gesù. Dobbiamo decidere chi fa la Madonna e chi fa il Bambin Gesù. Vabbè, rimane questa incertezza, ma vabbè, lui è ovvio che per sé pensa di fare entrambi, questo è il punto. Lo so, oppure Dio, insomma, colui che dall'alto. No, vabbè, no. La Trinità è troppo ristretta per ridursi a Silvio Berlusconi. Questo comunque, è noto. Bertolaso, questo fa capire Berlusconi come lo indorsa. Usiamo questo. Senti invece qua Storace, ragazzi, c'è un po' su tutto. Va avanti per i fatti suoi. Storace, anche lui si candida a sindaco a Roma. E se vince? Voglio farvi una promessa, questa sì. Se sarò eletto sindaco di Roma, convocherò in Campidoglio l'ambasciatore dell'India. e gli dirò che se entro 10 giorni non tornano in Italia, chiudiamo tutti i ristoranti indiani in città. I Marò. E senti, Al ricatto, vabbè. Si risponde con la fierezza e con la dignità. Oh, a brigante e mezzo, diciamo. Questo è Storace, col suo programma per Roma. No, avrà un programma, ovviamente, però insomma... durante i comizi che c'è Bertolaso ha un programma? No, non mi pare. Voglio sperare per il momento che lo qua di programmi ce ne sono pochi, ma chi l'ha presentato sabato? C'erano molte più persone di quanto mi aspettassi dai resoconti, però Marchini. Sì, però mancano ancora 3 mesi. Lo stesso Giachetti ha detto fino all'ultimo giorno, ma un programma il PD non ce l'ha ancora, dovremmo metterlo in piedi. Certo, insomma, fino a questo momento, diciamo, le armi contundenti del PD, l'hai letto quello che ha scritto Maria Teresa Meli sul Corriere oggi? Sì. Ah sì, Maria Teresa Meli oggi ha detto questa frasetta, secondo Maria Teresa Meli, Massimo D'Alema in una cena avrebbe detto questo: Renzi, udite bene, è del Mossad, va sconfitto, del Mossad, cioè i servizi segreti israeliani, ma... Non so, dobbiamo credere a questa frase. Non lo so, certo, Maria Teresa Meli non è proprio la fonte, diciamo. Ma più sai, in una cena però si nei confronti di Renzi, buttano, cioè è una specie di agitprop. Detto questo, sarebbe interessante vedere. Ecco, il clima è questo. Tra di loro oramai bisognerà chiamare un ministero delle Nazioni Unite. Ecco perché forse non andiamo in guerra sulla Libia. Siamo troppo impegnati nel PD a mettere i caschi blu tra le diverse fazioni. Questa cosa della Libia, però, secondo me ha ragione Renzi rispondere in qualche modo all'ambasciatore americano che fa un'intervista sul Corriere della Sera e si permette di dire ci aspettiamo 5.000 uomini. E si permette di dire, però c'è il piccolo particolare che risulta essere quello che l'Italia ha detto riservatamente agli Stati Uniti. Ma riservatamente scorso. Intanto è una cosa, cioè poi tu pubblicamente vai a dire ora mandate le 5.000. Si creano alcune degli allineamenti internazionali per i quali l'Italia riservatamente dice di voler fare delle cose, tutti dicono sì, poi alla fine gli chiedono di pagare pegno, per così dire. Non è che puoi dire una cosa per bloccare gli altri e poi fare il contrario in pubblico. Guarda che l'Italia sta facendo un po' questo. Sta facendo un po' questo, ma forse perché si è resa conto. Ci sono anche due morti che ballano. Sono il primo a dire che l'esperienza del 2011 dovrebbe insegnarci qualcosa. Detto questo, attenzione, perché faremo gli spettatori con gli altri, quindi è un po' delicato. Cioè, però tu dici che l'Italia ha promesso privatamente e riservatamente qualcosa che poi volta che viene tirata dentro pubblicamente. Nel nostro mestiere, in questo caso, rivedere retrospettivamente, ci sono infinite tracce di dichiarazioni in cui gli italiani chiedono, ogni volta che esce fuori la vicenda libica, dicono noi rivendichiamo di noi saremo il pilastro della missione, noi non come nel 2011. Il nostro mestiere di giornalisti è dire che l'Italia lo ha detto, non è che lo ha detto riservatamente, sono i particolari della spartizione delle aree territoriali per cui a noi spetterebbe la parte. Però adesso l'Italia si affretta a dire lo facciamo se c'è un accordo dei due governi, Tobruk e Tripoli, se c'è l'ONU che in qualche modo mette uno scudo e mette una legittimazione. Cioè non lo facciamo, io dico benissimo. Però troppe parti in commedia, bisognava dire sin dall'inizio noi non prenderemo parte a missioni militari in Libia. Allora, la coerenza tra quel che si dice e quel che si fa ogni tanto. Ieri Renzi ha fatto una frenata clamorosa. Era evidente che i giornali lo avevano molto inquietato. Deve frenare. Anzi, tradotto, i sondaggi. È chiaro che la politica internazionale si fa con i sondaggi alla mano. E quindi abbiamo avuto questa meravigliosa presenza alla trasmissione di Barbara D'Urso. Barbara D'Urso dice sei meglio di me. Gli ha fatto presentare Ivana Spagna, dai, alla fine. C'è il presidente Confalonieri dietro, esatto. Mi state cercando di trovarmi un posto di lavoro per quando lascerò la politica. Ma tu sei molto più bravo di me a fare il tuo lavoro. È molto più bravo di me. Ivana Spagna. L'ha detto, grazie, però Matteo, non si è fatto tirare dentro un po'. Ivana Spagna, cioè, poteva farlo con un po' più di... Signore e signori, Ivana Spagna! Comunque, caro Oscar, oggi a Bruxelles, oggi nel Consiglio europeo, si decide qualcosa di importante per quel che riguarda i rifugiati gli aventi diritto al titolo di profugo in Europa. E tra l'altro in questa settimana Radio 24 porrà un accento molto molto attento su questo tema. L'Europa al bivio greco con Radio 24 nel cuore della crisi. Allora, la nostra Valentina Furlanetto, che abbiamo sentito anche nel giornale radio, si trova dove, cara Valentina? Buongiorno. When did you come here? Valentina, aspetta, siamo in diretta, Valentina, eccoci. Sì, Alessandro, stavo parlando proprio adesso, scusa Alessandro, stavo parlando con questo ragazzo, Mohamed di Aleppo. Mohamed, are you a student? Ok, sì, in effetti ho fallito. Ecco, stavamo parlando con lui proprio qui ai Domeni, Alessandro. Lui mi raccontava che è arrivato proprio pochi giorni fa qui ai Domeni, dove c'è questo campo profughi immenso. Sono arrivati a 13.000 persone, erano 12.000 venerdì. Pensate, in un'ora arrivano 150 persone, contava l'UNHCR. Questo ragazzo ci stava raccontando proprio adesso che è arrivato prima nell'isola di Castellorizzo, quella, lo ricordate, del Mediterraneo, dalla Turchia, esatto, dalla Turchia, e prima ancora da Aleppo, poi è arrivato ad Atene, poi arrivano tutti qui. Ovviamente con la speranza, di arrivare in Europa. Cosa ne pensano di quello che l'Europa discuterà oggi? Cioè, hanno la percezione di ciò che l'Europa e Bruxelles discuteranno? Guarda, sì, ieri parlavamo con una ragazza, Amina, che abbiamo sentito nel radiogiornale, una ragazza irachena di 25 anni, tra l'altro incinta di 3 mesi, e mi diceva, dimmi tu che cosa sta succedendo, perché io so che domani, e quindi oggi, me lo diceva ieri sera, ci sarà un summit importante, e ci faranno passare, decideranno qualcosa, vedono ovviamente questo summit come una possibilità, e qui la frontiera è ancora chiusa, poco più in là, a circa 100 metri da qui, c'è proprio questa recinzione con filo spinato alta 1,5 metri, completamente chiusa, fanno passare circa 150 persone al giorno in maniera abbastanza arbitraria, i parametri cambiano di giorno in giorno, quindi un giorno gli afghani passano, il giorno dopo no. La maggior parte delle persone qui sono siriane, comunque sì, c'è la percezione. Valentina, quelli che incontri, che stai intervistando in queste ore, in questi giorni, hanno già una graduatoria ai loro occhi? Ci sono europei più benevoli nei loro confronti, sì, altri cattivi? Com'è sta graduatoria? Cioè, dove vogliono andare? I tedeschi sono in assoluto il miraggio, in questo limbo in cui ci troviamo, del paradiso chiamato Europa, perché la Germania, in particolare la Merkel, vengono vissuti come il posto dove la meta preferita in assoluto, tutti mi dicono voglio andare in Germania, qualcuno in Svezia, l'Italia non viene quasi nominata, viene nominata con molta simpatia ma non come un paese di approdo. Mi diceva ieri una ragazza che comunque sta valutando anche di passare attraverso l'Albania, e poco lontano da qui c'è un'area a 35 chilometri dietro l'hotel Ara, dove c'è un bosco, e mi raccontavano che è il luogo dove vanno a piedi per incontrare i trafficanti, mm-hmm, che per 800 euro ti portano alla costa dell'Albania. Insomma, sperando di fare questo viaggio. Sì, tra l'altro lo ricordiamo, oggi cadono 25 anni da quella famosa approdo a Brindisi della nave che arrivava da Durazzo, e quindi insomma potrebbero rivelarsi nelle prossime settimane o mesi scenari di questo tipo. Sappiamo che l'Albania e l'Italia ci stanno lavorando. Certo, diciamo che la Germania è interessante, quello che ci dici tu, cioè la meta più interessante. Qui, Oscar, bisognerà un giorno, poi in un futuro magari non tanto lontano, valutare quella famosa e celebre dichiarazione di Angela Merkel. No? Quando disse qualche mese fa la Germania apre le porte, poi ha un po' agosto, poi si è resa conto, c'è stata una reazione anche al suo paese, una reazione ritirata, c'è stata la reazione a catena dell'indisponibilità di fare da tramite, per così dire, per centinaia e centinaia di migliaia di profughi in marcia per tutti i paesi centroeuropei del blocco di Visegrad, e così via. Questi sono gli effetti anche, andremo in Germania, questi sono esattamente gli effetti, sai, poi nell'era della comunicazione che rimbalza velocemente in tutto il vedremo mondo, vedremo oggi innanzitutto dell'incontro che avviene a colazione dei leader dei 28 con il presidente del consiglio turco, sì, se davvero la Turchia in cambio di questi 3 miliardi si tiene come l'Europa gli sta chiedendo, te ne tieni almeno 3 milioni. Io un po' di scetticismo 3 milioni sulle soluzioni europee, ma hai letto i giornali, la gente, anche lo stesso Juncker che propone chiudiamo Schengen e riapriamolo tra qualche mese, cioè sospendiamolo, riapriamolo. Sembrano gli annunci dei supermercati, campagne acquisti terribili. Mi sembra che un po' così. Comunque, grazie a Valentina Furlanetto che tutta la settimana ci racconterà ovviamente negli appuntamenti, trasmissioni, giornali radio. Ovviamente buon lavoro Valentina, dai Domeni, quindi in Grecia. Continua nelle tue interviste nel raccogliere testimonianze che ascolteremo su Radio 24. Poi c'è la crisi degli immigrati, perché come il titolo d'apertura del Fatto Quotidiano l'hai visto, no? Roma non votano neanche i cinesi. No, dai, sto scherzando. I topi? No, i topi hanno votato. Ma sai che mi sono informato Questa è un'emergenza. Pensa quando il grande sindaco laico, no, Ernesto Nathan, che è stato sindaco con grande scorno, sì, degli Adinolfi dell'epoca a Roma, massone, prese il Campidoglio all'inizio del Novecento, pensa che uno dei suoi primi atti fu rivedere tutte le liste della spesa. E a un certo punto vide che c'era frattaglie per i gatti, frattaglie per i gatti tolte, e adesso ci abbiamo i topi. E sor sindaco, qua ci sono i topi. Niente, non c'è trippa per gatti, vieni di là. Viene di là. Pensa non un po'. C'è trippa io non per lo gatti. Sapevo questo. Il grande sindaco Nathan, il tronca dell'epoca, per così dire. Sì, però ci ha fatto lasciare in eredità i topi. E adesso diciamo che la colpa è sua. Lo chiederemo anche dei topi, evidentemente, a Virginia Raggi, perché pare uno degli elementi topi sì, topi no. Delle emergenze, insomma, di Roma. Virginia Raggi, candidata al Movimento 5 Stelle a Roma, sarà con noi ai nostri microfoni tra pochi minuti dopo la pubblicità. È meglio di Barbara D'Urso. State con noi. Eccoci qui, caro Oscar, sono le 8:38 minuti. Sai che ci hanno risposto su Bertolaso e Berlusconi. Che Berlusconi ha detto: se vado con Bertolaso all'Aquila mi portano. E invece un nostro ascoltatore come Gesù e la Madonna. Dice... Il nostro ascoltatore dice: se va all'Aquila li mettono in croce, ma a destra e a sinistra i di Gesù. Due ladroni. Piano, cari ascoltatori. Allora, siamo qui alle 8:39 minuti. No, piano, nel senso che comunque uno di quelli va in paradiso. Non siamo sicuri che qua almeno uno dei due ci andrebbe. Vabbè, non abbiamo dato prima il numero solito, è l'800240024, cari ascoltatori, ma ora dobbiamo salutare un consigliera comunale uscente a Roma, 37 anni, avvocato, ha ottenuto il 45,5% alle comunarie ed è dunque la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma. Si tratta dell'avvocato Virginia Raggi. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Allora Raggi, se dovesse essere sindaco si troverebbe subito un bel debito pari di 14 miliardi Roma. Come dovesse capitare, come si affronta questo debito? Beh, innanzitutto il debito come si affronta non lo possiamo decidere noi, perché è già stato in parte tutto deciso. Considerate che questo debito, appunto una sorta di bad company nel Comune di Roma, è stato creato tra il 2008 e il 2010 e per rifinanziarlo, per coprirlo, sono stati contratti una serie, diciamo, di mutui che comportano l'esborso di una somma di 500 milioni di euro l'anno, di cui 300 a carico di tutti gli italiani e 200 a carico dei romani. Tutto questo fino al 2040. Le notizie che ci giungono in questi giorni, qualche giorno fa, quindi cosa recentissima, sono assai preoccupanti. Ossia Barazzani, che era l'ex commissario alla gestione straordinaria, ha dichiarato che nel 2018-2019 probabilmente questi soldi che noi abbiamo, questi mutui sostanzialmente, finiranno e quindi praticamente non si sa più come ripianare il debito. Allora queste notizie sono assai preoccupanti e francamente ci fanno, come dire, infuriare, perché in pratica noi vorremmo capire da questi commissari che cosa hanno fatto dei nostri soldi, perché non sappiamo e non ci hanno fatto accedere alla gestione straordinaria, alla gestione commissariale, né quando eravamo consiglieri né lo hanno fatto ai nostri parlamentari, opponendo di volta in volta che la gestione non era tenuta a dare spiegazioni né all'uno né all'altro. Quindi lei intanto lamenta mancata chiarezza fino ad adesso. No, e attenzione, c'è un'altra cosa. A maggior ragione viene da dire, ma chi glielo fa fare, nel senso, dovesse essere sindaco? Guardi, c'è un'altra cosa debito ancora più preoccupante e che secondo me, insomma, in questo momento come non mai ci deve far riflettere. Sembra che su questa ulteriore dichiarazione di Barazzani sia stato steso una sorta di segreto istruttorio, così l'ha chiamato il ministro Boschi, per cui addirittura né noi romani né gli italiani possono sapere e capire che fine hanno fatto i loro soldi, per i quali peraltro già sono indebitati fino al 2040. E comunque dovete tenere conto che intorno a Palazzo Chigi l'intenzione già rivelata ai giornali è che vediamo chi vince, perché altrimenti noi restituiamo la gestione ordinaria quei 14 miliardi, il che significa prossimo sindaco partire con il piombo lei teme questo, nelle ali. No, guardi, io temo che qui siamo davanti a una banda di criminali. Perché? Mi faccio spiegare. Il premier Renzi è un premier che ha giurato sulla Costituzione di servire tutta la nazione, indipendentemente dal colore politico dei cittadini che amministra. Quindi se il premier pensa di fare un discorso di ricatto per cui a seconda di chi vince allarga o meno i cordoni della borsa, dopo che non ha minimamente chiarito di chi sia la responsabilità di quel debito, che si sono accollati, ripeto, i romani e gli italiani tutti, e pensa di decidere cosa fare a seconda di chi vince, secondo me questa è una gestione criminale. Evidentemente vogliono far fallire la città di Roma, ne prenderanno e se ne assumeranno tutte le conseguenze. Ma quindi, perché rendiamoci conto di quello che stanno facendo. La vittoria di Giachetti alle primarie, lei deve anche guardarsi un po' intorno e dire: Giachetti sarà il suo avversario, vorrà perdere Giachetti. Uno dei vari, certo, sì. Beh, a destra non si capisce ancora, poi diciamo. No. Giachetti lo teme? O Giachetti, secondo lei, non vuole vincere perché non vuole prendersi questa patata bollente del debito? Ah, quello che vuole fare Giachetti nel suo intimo io non lo so. Ritengo che sia il nuovo terminale di un partito che ha mostrato bene quali sono tutti i suoi fallimenti, quindi loro ripropongono di volta in volta una faccia più o meno nuova e pensano insomma di scamparla così. Io ripeto, temo che qui ci sia una grandissima confusione di ruoli e credo che qualcuno non stia facendo il suo lavoro, anzi proprio Giachetti e il suo partito in questo momento come non mai parlano di trasparenza, di voler fare pulizia, di voler riformare tutta la loro tutto il loro schieramento politico. Allora dimostrino sin da oggi, sin da lunedì, il giorno dopo le loro primarie, che vogliono fare trasparenza e vadano a bussare alle porte di Renzi e chiedere che apra tutta la gestione commissariale, ci faccia capire chi, come e cosa è successo per arrivare a questo punto, si perseguono anche le responsabilità. Una volta che si chiarirà il debito, mi faccia una proposta di come mettiamo il caso che si apriranno tutte le carte e il debito è di 15 miliardi, facciamo così una cifra. Come si risolve? Cioè chi lo deve pagare? Lo devono pagare tutti gli italiani? Lo devono pagare i romani con le tasse? Chi lo paga? Intanto, ripeto, lo stanno già pagando e lo pagheranno qui al 2040 tutti gli italiani e tutti i romani. E poi valutiamo le responsabilità. Lei adesso mi sta chiedendo una risposta a qualcosa che io non ho visto. Io vorrei innanzitutto che venissero perseguite le responsabilità, ma certo, vediamo le carte. Veramente noi ci troviamo di fronte a una situazione nella quale nessuno, tranne poche persone, conosce nulla. E quelle poche persone la tengono chiusa, la tengono sigillata. Facciamoci qualche domanda. Come è evidente, quel debito accumulato sono le impronte digitali della destra e della sinistra che hanno amministrato Roma prima, quindi è ovvio che questo è il vero motivo di questa opacità totale. Le leggo le parole testuali a questo proposito al Parlamento del procuratore nazionale antimafia, gliele leggo perché le leggo all'uomo, alla donna di legge Virginia Raggi, oltre che candidata dei 5 Stelle per Roma, perché il procuratore nazionale antimafia Rubert dice testualmente al Parlamento: fin da ora si può trarre un'amara conclusione. L'inchiesta Mafia Capitale non ha inciso in modo significativo nel fondamentale settore degli appalti e degli affidamenti pubblici, non ha costituito un deterrente per il ricorso alla corruzione. Le inchieste più recenti hanno documentato in termini di assoluta certezza come la corruzione sia diffusa, resti diffusa e radicata al punto di essere ormai sistema a Roma. Queste le parole del procuratore nazionale antimafia a Roma. Che cambio di marcia si può aspettare se vince lei e vincete voi? Allora, innanzitutto diciamo che le parole del procuratore sono preoccupanti, però effettivamente sono in linea anche con quello che ha dichiarato l'anticorruzione, ossia che tra Alemanno e Marino non c'è stato questo cambio di rotta, e diciamo anche che la corruzione a Roma sembra drenare risorse per 650 milioni di euro l'anno, un problema immenso. Allora, quando noi diciamo, e ci prendono tutti in giro, ma diciamo che bisogna ritornare alla legalità, significa nel caso specifico di Roma anche vigilare in maniera assolutamente capillare sugli appalti. Quindi andare a ripristinare un sistema di gare che sia con gare pubbliche, bandi aperti. Bisogna eliminare completamente i sistemi delle proroghe, che peraltro non sono neanche previste, degli affidamenti diretti. Bisogna eliminare il sistema delle emergenze, perché Roma è una città che si regge sulle emergenze. Però sai cosa succede appunto? Che a volte stanno scadendo le convenzioni e quindi si fanno gli affidamenti diretti, perché altrimenti ci sono servizi che verrebbero sospesi, no? Questo è vero e lo fanno tutti, però questo non deve essere un modus operandi. diventa invece un modus operandi quando, dopo un anno dall'insediamento della vecchia amministrazione Marino, ancora c'erano dei servizi che stavano scadendo e non c'erano stati tempi. Allora io capisco, nei primi mesi evidentemente non ci sono proprio neanche materialmente i tempi per fare le gare, ma nel momento in cui questa diventa la scusa per operare nell'ordinario, capite bene che evidentemente non si vuole andare a scardinare, cioè, questo lei dice sistema. Mettere quindi le gare a sistema, mettere le gare a sistema, ma considerate che proprio a dicembre, se mi permettete, è venuta fuori un altro anno scoperchiato, un altro pentolone, quello degli appalti sulle buche, che peraltro i romani cioè il problema democratico, hanno arrestato 7 funzionari e 18 tra dipendenti ancora in carica. Ma a proposito di opere e bandi, le faccio un esempio che per tutti i romani croce delizia, no? la metro C che nasce ormai 25 anni fa come idea, 39 varianti che fanno crescere il prezzo preventivato del 160%. Alla luce dell'esperienza della metro C, lei pensa che Olimpiadi Roma 2024 siano un'occasione o una roba sui cui conti andare a vedere con il microscopio, perché quelli che hanno, con cui abbiamo presentato la candidatura, secondo me, lo dico io, ma voglio la sua opinione, non sono certo conti che uno dice: ah, che grande occasione, si evita l'idea di riprodurre il magna magna. Non so come la pensa lei. Questa via è una domanda un po' retorica. Abbiamo dal momento in cui la candidatura fu presentata, noi ci siamo scagliati contro, e ci siamo scagliati contro non perché siamo contro lo sport, sia chiaro, ma perché da sempre le Olimpiadi hanno rappresentato terreno fertile per corruzione, ma soprattutto tutte le esperienze dalle Olimpiadi invernali di Torino, mondiali di nuoto, mondiali d'Italia 90 ci mostrano come la gestione dei soldi delle Olimpiadi sia sempre stata completamente sballata, e addirittura la valutazione preventiva dei costi si è sempre rivelata inattendibile. Addirittura tutte le edizioni estive delle Olimpiadi sono in corso in una sorta di sforamento del budget del circa 180%, addirittura a Montreal questo sforamento è risultato superiore del 790%, stiamo parlando di cifre immense. Allora, Roma è una città che ha bisogno di curare l'ordinario. Prima facevo il riferimento alle buche, che è un po' un problema democratico, ma noi veramente eleviamo il problema buche a programma di governo, eleviamo il problema traffico a programma di governo. Che cosa vuol dire? Che noi siamo una città assolutamente mal gestita nell'ordinario, nel quotidiano. Come possiamo pensare di andare a lavorare su grandi progetti, su grandi opere, su interventi straordinari, quando moriamo, stiamo morendo nel quotidiano? Quindi prima delle Olimpiadi le buche. Senta, le chiedo questo, avvocato Raggi, Roma è la città di Affittopoli, abbiamo scoperto di persone che vivono con pochi euro in appartamenti del comune, quando invece ci sono persone che non hanno una casa, ci sono movimenti che dicono non ci sono le case. Se lei diventa sindaco, come si risolve la questione casa, a cominciare da queste persone qui, vanno sfrattate? Allora, a cominciare da queste persone qui, bisogna innanzitutto chiedere, cosa che noi abbiamo fatto per 2 anni e non abbiamo avuto esiti, bisogna chiedere e pretendere che gli uffici completino il censimento del patrimonio immobiliare. Noi ad oggi non siamo in grado di conoscere quanti immobili abbiamo, non siamo in grado di conoscere lo stato di fatto e di diritto di tutti i nostri immobili, ne conosciamo una quota a parte. Mi dica lei se è normale. Un'amministrazione non sa che cosa ha in pancia, quindi questo è in assoluto il primo step necessario e deve essere completato nel più breve tempo possibile. E la dice lunga che poi l'accelerazione per la ricognizione dei casi più eclatanti venga dal commissario e non dai sindaci, cioè, di partito. Mi permetto di dire una cosa solo perché l'ha tirato fuori lei: in realtà noi tutto questo scandalo di Affittopoli l'abbiamo denunciato immediatamente, proprio perché ci sembrava assurdo quando Marino volle fare la delibera cosiddetta dello svendi patrimonio, ci sembrava assurdo svendere una parte di beni, appunto, senza sapere cosa, senza sapere quanto, e soprattutto nel momento in cui si veniva a scoprire che alcuni appartamenti, cioè il classico esempio dei 100 metri quadri a Fontana di Trevi, venivano affittati per 300 euro. Cioè, chiariamo, noi comune, quando dobbiamo prendere in affitto degli immobili per collocare i nostri uffici, spendiamo circa 120 milioni di euro l'anno. Quando dobbiamo incassare come proprietari di immobile, o non incassiamo perché non sappiamo che qualcuno occupa i nostri immobili, o non incassiamo perché ci dimentichiamo di chiedere, o non incassiamo perché chiediamo dei canoni irrisori e comunque ci dimentichiamo di chiederli. Sì. Voglio dire, c'è una disparità assurda e tutto questo poi pesa sulle spalle dei romani, perché si trovano a pagare aste altissime e ovviamente non hanno servizi, perché i ricavi del comune, permettetemi questo termine generico, sono risibili, perché ci permettiamo di sperperare soldi e di non incassare. È chiaro, insomma, vederci tutto chiaro. Allora, abbiamo un minuto, dei topi non le abbiamo chiesto, ma insomma i topi sono un problema che se diventerà sindaco dovrà affrontare. Teme ancora o è stata depotenziata questa storia che lei ha fatto il praticantato dall'avvocato Previti o dai previtiani, insomma, come la passa questa vicenda? Dice, non... Io a domanda ho risposto, come si dice in gergo. Sì. Non rinnego, sono stati gli anni di pratica che ho svolto lì e come tutti i praticanti italiani, prima dell'introduzione del processo civile telematico, avrò fatto ore e ore di fila in tribunale per fare qualunque cosa, dalle notifiche alle richieste copie. Questa era l'attività che svolgevo come praticante. Perfetto. Poi ripeto, insomma, la polemica lascia un po' il tempo che trova. Va comunque bene. Guardi, la certezza è che l'esperienza di avvocato le sarà utile come uno scudo per l'attività. Dovesse vincere questa sì. Bocca al lupo come a tutti i candidati. Grazie. Ovviamente Virginia. Grazie. Raggi, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Roma. Qui caro Oscar, basta sono scomparsi, basta topi. No, basta topi è per il programma dei gatti. No, è ovvio che io fare. Sono niente dai, io comunque do un pensiero a due persone scomparse, Nancy Reagan e va bene, ma io voglio ringraziare ieri chi a Siena è andato in piazza e si è stretto intorno alla vedova di David Rossi. David Rossi, il portavoce dell'MPS, non suicidato ma ucciso per coprire. Io sono tra quelli che ritengo, tu sei convinto, che le nuove indagini porteranno, come si vede già dal prime risultanze che stanno i PM, povero David Rossi ucciso per coprire la truffa di MPS, e grazie ieri a chi è andato in piazza per abbracciare la vedova. A domani, noi ci fermiamo qui.